24 mattino. Io oggi vorrei leggere alcune delle domande pronunciate giovedì durante l'incidente probatorio sul presunto stupro di qualche mese fa, quando sono state interrogate le due ragazze americane. Gli avvocati difensori dei due carabinieri le hanno trattate come se fossero loro le imputate. Considerava sexy l'appuntato camuffo? Ha mai visitato negozi di divise? Avevate bevuto anche dopo il presunto stupro? Aveva già subito stupri? Quella sera portava le mutandine? Eccoci qua, 7:19 minuti e 43 secondi, non è satira oggi, è l'invettiva di Geppi Cucciari che commentava, come sapete, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, l'interrogatorio particolarmente duro subito dalle due americane che avevano denunciato lo stupro a Firenze. Ebbene, oggi voglio aprire parlando di una storia, di una donna. Una donna che faceva la barista in una provincia in Italia, aveva 22 anni, lavorava a Porto Torres, e questa donna, come è successo ad altre donne e come è successo alla più famosa, tristemente famosa di loro, Tiziana Cantone, e questa donna è arrivata al suicidio. Ce la racconta Alberto Pinna sul Corriere della Sera. Ricattata, intimidita, addirittura vittima di un furto a casa in circostanze misteriose. Alla fine il video hard è saltato fuori e ora è chiaro perché Michela si è uccisa. Le immagini cominciavano a girare, lei aveva paura, era già sotto ricatto. Il giallo della barista non è risolto, ma c'è una pista e tre amici di Michela De Rio, che a 22 anni si è strangolata con un laccio. Sono indagati, istigazione al suicidio, tentata estorsione, diffamazione aggravata. Il video è stato trovato in un computer a casa di uno degli indagati. Disperata, Michela era fuggita da Porto Torres. Puoi ospitarmi per qualche giorno? Aveva chiesto a un'amica, ed era precipitosamente partita per la Maddalena, ma i tre hanno continuato a tempestarla, telefonate, messaggi, e la notte fra il 4 e il 5 novembre è crollata. Prima di uccidersi ha scritto due biglietti all'amica: scusami, ma Porto Torres non sarei riuscita a far ritorno. In un altro foglio, strappato e appallottolato, una frase che ha subito fatto pensare a un suicidio anomalo: sono riaffiorati quegli scheletri di due anni fa. E allora sembra da questa vicenda che Michela avesse, come tante persone, girato un video hard consapevolmente, volendolo, ma poi, una volta finito come dire il momento, una volta superata quel rapporto di complicità, questo video aveva iniziato a rimbalzare. Ora non importa, in questo caso importa per la inchiesta, chi lo ha fatto girare, come, quando, perché, nel senso che poi verrà appurato. Il problema è che non ci rendiamo conto, non riusciamo a spiegare ai nostri amici, alle nostre sorelle, ai nostri figli, che girare un video è per sempre. È un'impronta che resta per tutta la vita. Allora oggi, dedicando alla sua storia questa rassegna stampa, vorrei pensare che nel tempo digitale possiamo essere tutti vittime di una sola immagine. Michela aveva 22 anni, speriamo che sia l'ultima. Allora, vi dicevo che c'è ovviamente questo terremoto che riguarda il Milan, e mi interessa perché il Milan è una grande vicenda italiana, no? È la squadra di Berlusconi, è la squadra dei grandi primati, è la squadra che convive con un'inspiegabile decadenza. Aveva fatto un mercato pazzesco, 200 milioni di euro, e poi come sapete Montella, risultati alterni, tanti pareggi fino all'esonero di ieri. Allora c'è un fondo durissimo di sconcerti che dedichiamo ad Alino Milan, il nostro milanista eccellente. Montella è stato esonerato, Corriere della Sera, pagina 48, dai fischi di San Siro. È la scelta di Gattuso che lo conferma. La ricerca di un vecchio collante, più anima che risultati alle spalle, però un grande milanista. L'idea non è arrivare in Champions, ma ricompattare l'ambiente. Gattuso permette inoltre di cercare, scrive Sconcerti su Corriere della Sera, con calma il tecnico della prossima stagione. Non è una mossa sbagliata, mi sembra più una mossa disperata. Giornata, perché condanna i dirigenti del Milan, Fassone e Mirabelli, a confrontarsi pubblicamente con il proprio lavoro. Non ci sono più mediazioni. Per la prima volta il nuovo Milan è solo responsabile dei risultati più dell'allenatore. Non sono sicuro che sia un lavoro che Fassone e Mirabelli sappiano fare per intero. Non ne hanno i titoli, manca il peso di una grande presidenza. Fassone e Mirabelli sono re e vassalli nello stesso tempo. Il dialogo fra il calcio e loro, quello fra la gente e il Milan, è dunque sempre dimezzato. Oggi inizia la loro grande solitudine. Avranno la forza, i poteri, la personalità per reggerla? Non lo so. Quello che è accaduto finora è stato un evento quasi circense. Grandi eventi per acquisire entusiasmo, non valore. Di sicuro non è ancora costruito il Milan, non c'è, non si sente. È una civilissima non gestione del poco che è nato. Fassone è uno dei migliori manager del calcio, Mirabelli un esploratore al primo scontro, ma il calcio è uno sciocco romanzo popolare, basato spesso sui bisogni elementari dei giocatori, che tutti insieme non fanno logica ma psicologia. Il Milan fino ad oggi è stata una squadra gentile, buona, dedita più al ricciolo che alla sostanza, una squadra non pressata che cercava gli schemi quasi senza dover rendere conto a nessuno, dimenticando che gli schemi li hanno anche gli altri. Montella ha fatto meno di quel che poteva, questo è evidente, ma tutti sanno che la colpa non è solo sua, e a questo punto o il Milan risolve le colpe di tutti o non ci sarà un nuovo Milan. Allora, questo non è solo un romanzo sul calcio, è una storia su come si cade e speriamo si risorge, è una storia che accade in diretta e che è bello seguire. E andiamo a Gallitelli. Non avremmo mai pensato che questo Matteo Salvini sarcastico, che ieri avete sentito qui a questi microfoni, diventasse il titolo di prima pagina di Repubblica e il cuore dei pezzi di cronaca su tutti i giornali. Repubblica, il generale che divide la destra, e inizio dalla lettura di questi titoli. Salvini stronca Gallitelli, candidato premier di Berlusconi, non ne abbiamo mai parlato, fake news, una sola mano ha ricostruito i siti per la propaganda di leghisti e grillini. Il Giorno, l'oracolo delle tasse, ricette elettorali, Alberto Mingardi e il teorico della flat tax al 25% per tutti i leader politici che a sinistra e a destra vogliono incontrarlo, servono 30 miliardi l'anno. Il Corriere dello Sport, il Milan ringhia e c'è una foto di Gattuso, lo abbiamo già sentito, diciamo, nella nostra copertina. Da Trump all'Italia, il Messaggero sfida sul fisco un fondo per i familiari badanti. Questa è una notizia importante, si cercano questi soldi, è una buona idea del governo, ma sembra che non ci siano risorse. Aiuti alle famiglie, ma sconto ridotto sul super ticket. E infatti questa è la sostanza del titolo del Corriere della Sera, dove c'è una foto del Papa in Birmania e un fondo di Angelo Panebianco, un centro di gravità per l'Italia. Poi vi leggo La Stampa, manovra, il governo promette soldi a chi cura i malati in casa, e vedete che siamo sempre sul terreno delle promesse, e il fondo di Francesco Guerrera, la crescita resuscita il greggio, il vertice dell'OPEC, molto importante, perché questi valori poi influiscono anche sui nostri. Il Sole 24 Ore, un tax day da 32 miliardi, web tax in salita, 3 decreti per attuarla, lo leggeremo presto, i colossi della rete pronti a trattare. C'è un doppio parere molto interessante sulla prima, De Benedetti contro Mucchetti, ma ripeto, poi lo vado a leggere nello spazio dell'economy. Italia Oggi, antitrust, no all'equo compenso, l'autorità garante, e questa è l'altra notizia, avete sentito nel giornale radio, boccia la norma perché reintrodurrebbe i minimi tariffari. Intanto spuntano altri bandi pubblici con compensi di un euro. Ci fermiamo un attimo per il meteo e torniamo. Curiamolo, leviamogli il metadone. Allora, rieccoci al caso del generale Gallitelli, sollevato qui da Salvini, sentitelo. Gallitelli ce lo deve commentare. No, questa non l'avevo mai sentita. No, come? È su tutti i giornali oggi. No, non l'avevo mai sentita. No, ma il bello è pare che lui non lo sappia. Ma così siccome io quando ci siamo visti a Catania, ho detto: scusa Silvio, ma non continuare a dire sta roba dei ministri. Ah, non ne abbiamo mai parlato. B, è l'ultima delle cose che gli italiani sono interessati ad ascoltare. Quindi lui ha detto, Berlusconi ha detto che l'avete sentito e avete eravate d'accordo su 12 e 8 e non è vero. Non è ma vero. Se non abbiamo ancora sottoscritto il programma comune. Ma infatti mi sembrava, a dire la verità, mi sembrava però. Fiscale, la legittima difesa, la riforma della scuola, secondo lei abbiamo sottoscritto il numero dei ministri. E allora, vi dicevo, sul Libero c'è stupore, la politica addirittura è il titolo di prima, si arrende a militari e magistrati, democrazia in crisi profonda, e il titolo di apertura è Gallitelli, Bossi e ministri, le scelte berlusconiane fanno arrabbiare Salvini, partendo da quest'audio, da questo dialogo, lo racconta Matteo Pandini sul Libero. Ma scusa Silvio, ma non continuare a dire questa cosa dei ministri, non ne abbiamo neanche parlato. No, rido perché la politica è l'arte del possibile e anche l'arte della battaglia. Allora, qual è l'interpretazione giusta di questo gesto? Berlusconi getta il cuore oltre l'ostacolo e usa il peso simbolico di Gallitelli per posizionare Forza Italia? Se così va bene, perché come cita Pandini sul Libero, il sondaggio di Enrico Mentana di EMG per il TG della 7 dice che Forza Italia è al 14,6, la Lega al 13, ma non è detto che queste variazioni siano sicure, si tratta di decimali. La verità però dà un'interpretazione totalmente diversa e dice: l'uomo forte, cioè dà credito alla sortita di Gallitelli e sottolinea il fatto che il generale non ha smentito. Ci sono dei boatos, però non si è tirato fuori. Lo fece invece quando Berlusconi ne parlò come possibile candidato nel Lazio. Allora sentite Belpietro e il generale Leonardo Gallitelli, già comandante dell'arma, l'uomo forte, il candidato premier, l'ideale del centrodestra. Il cavaliere vuole premier il generalissimo che gli aveva detto no. E la mossa a sorpresa di Berlusconi, spiega sempre sulla verità Alessandro Darold, semina zizzania fra gli alleati leghisti. E allora capite che per farsi un'idea bisogna capire che cosa scrive il giornale, che in questi casi il giornale della famiglia Berlusconi ha una primazia. E allora vedete che c'è una doppia pagina in cui viene sostenuta ancora l'idea di Gallitelli, non c'è soltanto Gallitelli, la società civile vede in azzurro. Però io passo a Repubblica perché c'è una cosa molto interessante, c'è Repubblica con una punta di malizia e fa un ritratto encomiastico del generalissimo. E ovviamente per saggiarne le qualità e per vantarle dice: carabiniere nell'anima, è tornato una sola volta in ferie a casa sua quando è morto il padre, è cresciuto sul campo e non nei palazzi della politica. E poi dice: ha fatto arrestare parecchi dirigenti di Forza Italia e ha condotto l'inchiesta su Guido Bertolaso. Cioè, meraviglioso, è un marchio di garanzia. Da un lato sarebbe una medaglia per Berlusconi sostenere qualcuno che ha indagato uno dei suoi pupilli come Bertolaso, dall'altro per Repubblica però è un marchio di qualità. Voi sapete che ora è capo dell'antidoping e fa saltare le Olimpiadi di Rio il canottiere Carlo Mornati senza curarsi che sia il fratello del vice segretario generale del CONI. Tutto questo su Repubblica, firmato da Goffredo De Marchis a pagina 2. Ho l'impressione, per chiudere questa pagina, che il caso di Gallitelli ci appassionerà ancora a lungo. Allora, l'altro caso è questo delle fake news, anche qui c'è battaglia. Allora, la notizia lo sapete, un'inchiesta in cui si parla di un uomo che in Italia gestisce tanti siti, su Repubblica salta fuori questo nome, Marco Mignogna, imprenditore di Afragola, l'intestatario unico della galassia web accusata di favorire la diffusione di fake news. Ce l'ho raccolta Carlo Brunelli insieme a Tiziano Tognutti da Roma ed è la storia che francamente non Non mi sembra che abbia il rilievo di una notizia criminis, no? Per esempio, gli stessi giornalisti di Repubblica dicono: va detto subito che nel sistema dei siti che fanno riferimento a questo Mignogna, ogni articolo e video è sempre dichiarato nella sua fonte, così chi clicca la notizia può sempre risalire all'originale. Non è detto che l'originale sia sempre attendibile. I siti lavorano molto sul cosiddetto clickbait, ovvero l'invenzione di titoli a chiappa click che interpretano una notizia nella chiave che potrebbe piacere di più. Ne parlavo però stamattina presto. Se un sito forza per cercare ascolto, se un sito fa un titolo forzato, fa quello che i giornali fanno nella più antica e, come dire, nota forma del giornalismo, che è vendere copie, in questo caso acchiappare click. E vi dicevo che su questo addirittura un pezzo opposto è quello di Giacomo Amadori sulla Verità: c'è l'ombra della CIA addirittura dietro l'hacker amico di Renzi. E tira fuori un altro nome: Andrea Stroppa è l'uomo che ha ispirato l'articolo, l'inchiesta del New York Times sulle presunte fake news di Lega e Movimento 5 Stelle cavalcata dal PD in chiave elettorale. E allora siamo veramente alla follia, cioè c'è un'inchiesta del New York Times che parla di un sito di fake news che forse aiuta 5 Stelle e Lega, questa inchiesta è ispirata forse da un uomo vicino a Renzi secondo alcuni, e comunque è un sito, un sistema di siti che non mi sembra che commetta reati. E va bene. Repubblica si occupa anche del sindaco di Milano Sala, che adesso fa una svolta bipartisan. Per la RAI e la Consob a Milano boccia gli 80 euro di Renzi, cioè l'uomo che l'aveva spinto sulla poltrona di sindaco. Conclude questo processo di allontanamento Federica Venni da Milano su Repubblica a pagina 11, ospite della Leopolda di Forza Italia ma assente alla Leopolda di Renzi, e questo dispiace. Lui stesso dice delle frasi che autorizzano a, come dire, certificare questo spostamento. Il sindaco oggi è più neutrale, scrive Federica Venni, dovrò parlare con chiunque vinca le elezioni. È nata la terza via? Qualcuno sta abbandonando Matteo? Non lo so, lascio a voi questa interpretazione. Sempre da Repubblica, perché c'è un annuncio. Sapete che sabato scende in campo, probabilmente Grasso come campione della sinistra, il presidente del Senato Giovanna Casadio su Repubblica, pagina 8, rivela che oggi si scelgono i bozzetti con il nuovo logo, ma sembra che il simbolo prevalente, l'anticipazione della giornalista di Repubblica, dovrebbe essere quello della rosa dei socialisti europei con un grande fondo rosso e la denominazione Grasso Premier, come sempre si fa in questi casi per marchiare la lista con l'uomo che è l'anima. Quindi è interessante, lo vedremo, lo seguiremo. Voglio leggere un doppio ricordo, Saviano e La Gioia, quindi lo scrittore italiano più famoso e il premio Strega, che erano compagni di un ragazzo che è morto ieri, è morto all'improvviso, quarantenne, giovanissimo, Nicola Leogrande, lo scrittore che aveva raccontato i caporali nella sua Puglia, che aveva scritto dei libri importanti sul sud, sui migranti, è stato stroncato. Alessandro Leogrande è stato stroncato da un malore mentre tornava a Roma dopo una presentazione. Allora Nicola, La Gioia, Roberto Saviano lo ricordano, per chi vuole leggere questo ricordo è molto importante. E lo leggo a un'altra proposta che ho letto sul Corriere della Sera, quella di Lucarelli, che propone di assegnare il premio Strega quest'anno a Severino Cesari, un altro grande intellettuale che è morto quest'anno, e dice però la sua opera è viva, se si assegnano dei premi è bene, si potrebbe dare il premio Strega al suo libro, che è un libro molto bello. Si salvi chi può, il titolo del Manifesto. L'Italia ci ha detto di non effettuare i soccorsi e di aspettare le navi libiche, l'accusa delle ONG. Continua la polemica di quest'estate, perché poi in Italia le polemiche non finiscono mai. La frase di Meghan Markle: né bianca né nera, sono una multirazziale. Forse questo presentarsi al mondo dell'attrice americana che sta per impalmare, per fidanzarsi con il più giovane e più noto dei reali, dei giovani reali inglesi, è sicuramente un messaggio che attraversa le barriere della famiglia reale. Ci fermiamo ancora per il traffico e poi torniamo per il money e per la mitragliata. Io no che non mi schiodo, non mi schiodo, io no che non mi schiodo. Vabbè, insomma, avete capito. Mattino. Siete nella cacca fino alle orecchie. Ancora non ve ne rendete conto, ma siete la generazione dei tre niente. Niente lavoro, niente reddito, niente risorse. Davvero un gran bel futuro. E speriamo che non sia così, Gordon. Speriamo che non sia questa catastrofe il futuro che attende le giovani generazioni. Ma oggi c'è molto da discutere sul tema dei soldi che circolano e friggono in questo paese. Il super ticket, il taglio sarà mini. Il gioco di parole è volontario, spero, sulla pagina 30 di Repubblica. Soldi a chi cura i malati in casa. Questi sono i due progetti del governo, l'abbiamo visto anche nella rassegna dei titoli, ma è il problema che questi soldi che si vogliono dare non ci sono, quindi il taglio sarà mini e si cercano i fondi, un fondo ad hoc. Sto leggendo il pezzo di Michele Bocci e Roberto Petrini da Roma su Repubblica, il fondo ad hoc per chi presta assistenza ai familiari più prossimi. Molto importante, a pagina 31, così lo cito subito, Valentina Conte, caos ape social, nessuno riuscirà a riceverla entro fine anno. Ma vi rendete conto? No, ma ne stiamo parlando da mesi. Hanno istituito questa app social, poi l'hanno allargata, poi hanno cambiato il criterio, poi hanno aperto la strada alle domande, o poi hanno bocciato le domande, poi hanno fatto una nuova proroga, ma nel frattempo si è aperta, legge e scrive Valentina Conte, una seconda finestra che si chiude giovedì. Le nuove domande, secondo le prime indiscrezioni, non dovrebbero essere più di 15.000, però sicuramente non si riuscirà ad arrivarci a prendere questi soldi entro fine anno. Ale! Allora, il Sole 24 Ore, vi dicevo che fa una doppia, un'apertura su un tema molto importante, che ovviamente è quello degli adempimenti fiscali. Pensate, giovedì ne scadono 81 contemporaneamente e ci sono ovviamente tanti gettiti che sono attesi, fra cui quello della prima cedolare per gli affitti e un conto da 32 miliardi per il tax day. Che cosa però è importante sapere? Che c'è un grande dibattito sulla web tax in salita, perché ci vogliono 3 decreti per attuarla. Allora, il tax day a pagina 3 con il pezzo di Giovanni Parente. E il dibattito sulla web tax con uno di coloro che hanno scritto la norma, il senatore del Partito Democratico Massimo Mucchetti, che interviene sul Sole spiegando: sì, è vero, ci sono tante difficoltà, ma questa è la risposta ai furbetti di Dublino, cioè quelli che la web tax in Europa non l'hanno pagata. Il pezzo è a pagina 2 ed è affiancato però dal Sole, la bellezza del dibattito, con un altro editoriale di Franco De Benedetti che parla di errore ideologico. Quindi, diciamo così, web tax sì o web tax no, potete buttarvi in questo viaggio di opinioni molto importanti sul Sole 24 Ore di oggi. Allora, l'ho citato, ma magari qualcuno si è messo ora in ascolto, sul Giorno c'è questo personaggio con una foto di prima, un signore, un ragazzo con gli occhiali, l'oracolo delle tasse. Il pezzo è il ritratto intervistona di un uomo, e stiamo parlando di colui che ha pensato, Alberto Mingardi, è uno dei teorici della flat tax al 25%. La flat tax è l'imposta piatta per cui le tasse e la base imponibile viene imposta a tutti con la stessa aliquota, non più in modo crescente rispetto all'aumentare dei redditi. Di moda all'estero in Arabia, ma adottarle è un lusso. Funziona, scrive Elena Comelli sempre sul Giorno, dove le casse non si alimentano con le tasse. E quindi da noi potrebbe funzionare, chi vuole si legge questo approfondimento. Sul Manifesto, siccome c'è grande polemica sul glifosato, poi sapete che in Europa il nemico di questo ingrediente è Macron, ieri dopo la decisione di Bruxelles il presidente della Repubblica francese ha detto: mi impegnerò perché in 3 anni la Francia ne esca. Il Manifesto titola: contro il regalo di Bruxelles alla Monsanto, chi vuole leggere questo pezzo contro lo trova a pagina 8 del Manifesto, ma ci sono anche tanti che spiegano come in Europa l'uso non sia eccessivo, si è già calmierato, e l'Italia sia uno dei paesi in cui c'è più equilibrio. Quindi la guerra del glifosato è un secondo tema per chi ama i temi controversiali, e io direi che possiamo girare e andare alla mitragliata. Ho detto glifosato, ho detto glifosato. Vabbè, ogni tanto a quest'ora si possono fare tante follie. Glifosato, ho detto, bravo. Allora, il boss non ha diritto alla televisione. Vincenzo Forestano, secondo il Giorno, era al 41 bis nel carcere di Opera, aveva diritto ai giornali, ha fatto una lunga istanza per avere la televisione e ora gli hanno detto no. Niente televisione, sei al 41 bis e non te la facciamo prendere. La tassa sugli Airbnb, l'antitrust, l'avete sentito anche nelle notizie dei TG, l'antitrust dice che la tassa Airbnb danneggia i consumatori, il garante è la concorrenza contro la cedolare secca per gli affitti brevi, gli albergatori, così si aiutano gli evasori, il governo non ascolti. Roberto Giovannini a pagina 4 per leggere uno dei tanti pezzi che ci sono, ma è uno dei temi su cui potremmo discutere oggi, perché ne avevamo parlato, avevamo avuto anche dei rappresentanti delle associazioni che dicevano che comunque era un modo equo di pagare le tasse. Voi siete d'accordo o no? Non lo so, lo sentiamo. Allora, il Corriere della Sera ci avvisa a pagina 39 di un grande salto in avanti per l'umanità, non sto scherzando, lo dico davvero. La Samsung, vi ricordate che ha avuto problemi con le batterie che esplodevano? Sta per rifarsi alla grande con una super batteria in grafene che potrebbe ricaricare i vostri telefonini in appena 12 minuti. Beh, sarebbe straordinario. Alessandra Mussolini, Messaggero, pagina 13. A Ostia servirebbe mio nonno. Dai Alessandra, ma lascialo perdere tuo nonno. E poi non è tuo nonno, è Mussolini, è il padre di tutti gli italiani. Non è il tuo nonno, è il segno della storia d'Italia, odiato, amato, ma non è una proprietà personale di una famiglia. Allora, i mercatini di Natale su Libero, pagina 5. E c'è questa polemica incredibile sui mercatini di Natale che hanno un logo Mercatino di Natale a Torino, e a pagina 5 c'è il fatto che è esplosa la polemica di nuovo nel nome di Mussolini, perché qualcuno ha ravvisato in questo mercatino di Natale, il logo di il mercatino di Natale di Bolzano, una M che richiamerebbe al ventennio. Ora, io scherzo, non è il nonno della Mussolini, non è il padre degli italiani, è un pezzo della storia italiana, e Mussolini forse dovrebbe essere lasciato in pace quando si parla del mercatino. Ci fermiamo ancora una volta e poi arriva il momento dei cani e dei gatti.